Le tue labbra di adolescente sono una chimera. La primavera è apparsa dopo una misteriosa notte ed è apparso un sorriso sul tuo dolce e pallido volto. Le tue labbra di adolescente sono una chimera. La primavera è apparsa dopo una misteriosa notte ed è apparso un sorriso sul tuo dolce e pallido volto.